Proseguendo nella lezione con il Torah di Torah, di Chumash, abbiamo concluso la storia di Avram che ha combattuto con gli altri re della zona, cosa che ha salvato anche tutti coloro che erano presi in prigionia, erano presi prigionieri, incluso chiaramente il suo nipote Lot. Qui arriviamo ad un momento, l'inizio del capitolo 15 del libro di Bereshit, sempre nella parasha di Lech Lecha, un momento molto particolare che segnerà tutto il futuro della progenia di Avram. La nostra situazione, la situazione del popolo ebraico, sarà in qualche maniera segnata da questa profezia che andremo ad approfondire. La Torah ci dice, andiamo subito al testo, Achara devarim haele, immediatamente, subito dopo ciò che è accaduto appunto nella guerra tra i cinque re contro i quattro re, Haya devar Hashem el Avram, il Signore parlò con Avram, Bamachase, in una visione profetica, Lemor dicendo, Altira Avram, non temere Avram, Anochi magen lach, io ti proteggo, io sono una difesa per te, Secharecha harbe meod, la tua ricompensa è molto vasta, è molto grande. Allora, questa profezia apre con qualcosa di strano, sembra quasi come se Avram si preoccupasse di qualche cosa, e HaKadosh Baruch Hu lo calma e gli dice di non preoccuparsi. Qual è il problema? Di cosa si sta preoccupando Avram Avinu? Allora i commentatori e i Midrashim ci spiegano che la cosa si lega esattamente a quello che è accaduto prima. Leggiamo, vi cito le parole del grande commentatore Don Yitzhak Abarbanel. L'Abarbanel scrive così: Avram pensava fino a quel punto nella sua storia, nella sua vita, che lui si farà avanti nella propria strada, senza disturbare nessuno, con la sua integrità, con la sua onestà, lavorerà la terra e nessuno lo disturba, lui non disturberà nessuno, nessuno disturberà lui. Come dire, il sonno del lavoratore è dolce, è onesto, non ha problemi, non disturba appunto nessuno e nessuno disturba lui. Ora che è entrato in un contesto internazionale in maniera così violenta, ora dovrà sempre temere, di giorno e di notte, dice la Barbanel, dovrà avere della protezione, dovrà mettere intorno a sé dei soldati armati e così via. Quindi, appunto, il Midrash dice una cosa simile, dicendo tutte queste persone che io ho sconfitto, questi re, questi nobili e così via, verranno a cercarmi e mi creeranno problemi, problemi gravi. Allora, chiaramente, una situazione di conflitto armato non è una situazione semplice e anche se Avram pensava di essere costretto a dover entrare in quel conflitto, comunque ora deve pensare alle conseguenze. E le conseguenze sono molto significative nel tempo. Un'altra cosa, un aspetto spirituale. Quindi Avram temeva cosa? Se guardiamo il senso pshat, il senso semplice, le conseguenze di ciò che è accaduto prima. A livello più profondo, nella tradizione ebraica, c'è sempre l'idea che i tzadikim, o in generale quando si merita un qualche intervento dall'alto, dal divino, a nostro favore, questa cosa non la dobbiamo considerare gratuita, un dono e non meritato. È qualcosa che in qualche maniera va a scontare dei meriti che nel tempo abbiamo accumulato. Allora è come se Avram dicesse, io ora temo, cosa temo? Che forse tutto quel merito che ho accumulato a mio favore nel tempo, nel seguire HaKadosh Baruch Hu, è stato tutto speso, per così dire, per meritare una salvezza ed una sconfitta miracolosa con la quale lui ha sconfitto quegli altri re. Quindi non temere né sull'aspetto tecnico e materiale, né anche sull'aspetto, nemmeno sull'aspetto spirituale. Al tira Avram, non temere Avram, non hai cosa temere, non hai da temere anche, dice il Midrash, nemmeno l'idea che forse ti farai la domanda quando vai a dormire, non riesci a dormire la notte dopo che hai sconfitto, dopo che hai concluso quel conflitto, perché ti chiedi, forse qualcuno che non se lo meritava è stato colpito da me, forse ho ucciso una persona o più persone innocenti. A tutte queste cose risponde la Torah a Kadosh Baruch Hu in questa visione profetica e dice Al tira, non temere. Poi aggiunge Anochi magen lach, io sarò il tuo scudo, io sarò la tua protezione. Da qui il termine Magen Avraham, a Kadosh Baruch Hu è lo scudo di Avraham, che viene a far parte della Amidah, la Berachah che conclude, la prima Berachah della Amidah, che conclude con le parole Baruch Ata Hashem Magen Avraham, lo scudo, il protettore di Avraham, perché qui a Kadosh Baruch Hu si autodefinisce Magen, il protettore, lo scudo di Avraham. Secharecha harbe meod, e anche il tuo merito è molto vasto. Non è stato, diciamo così, tutto speso su questi miracoli che ti sono stati dimostrati. Allora, a quel punto, Avram risponde ad Akadosh Baruch Hu in questa visione e gli dice, ma non è solamente questo il problema, o questi i problemi, tutti quelli elencati. C'è un altro problema. E qui vediamo una conversazione molto molto intima, e dove Avram apre il suo cuore, il proprio cuore, e dice ad Akadosh Baruch Hu, vediamo il secondo versetto insieme, Vayomer Avram, e disse Avram, Hashem Elohim, Signore Dio, mio Signore, ma ti tenli, cosa potresti darmi? Ve anochi holech hariri, nel momento in cui sono senza figli. Uven meshek beiti hu damesek Eliezer, chi amministra la mia casa è Eliezer di Damasco, cioè una persona comunque estranea, non un figlio, come avrei voluto. Allora questa grande ricompensa di cui tu parli a Kadosh Baruch Hu, dove andrà a finire? Sia che si tratti di una ricompensa materiale, i beni materiali accumulati avrebbe voluto trasmetterli ad una prossima generazione, la gestione di tutti i suoi beni, la gestione di tutte le sue attività, ma anche il bene spirituale, il patrimonio spirituale che Avram lascia al mondo. La fede in Akadosh Baruch Hu, il seguire solo Akadosh Baruch Hu e tutti gli insegnamenti di Avram, dove andranno a finire? Tra l'altro, era già stato promesso ad Avram, io ti farò di te una grande nazione. Ma qui Avram dice, e dov'è questa grande nazione? Io sono senza figli. E continua a precisarlo nel prossimo versetto, il verso numero 3. Vayomer Avram, disse Avram, hen li lo natata zara. Ecco che a me non hai dato un seme, cioè non hai dato una prossima generazione, un discendente. Vihine ben beiti yoreshoti. Ed ecco che il mio servo, quello che è nato dentro casa mia, è lui che sarà il mio erede. Ora Kadosh Baruch Hu gli risponde, versetto 4. Vehine devar Hashem elav lemor. Ed ecco che il Signore si risponde a lui dicendo, lo yirashchaze, non sarà questo la persona da te indicata a ereditarti, ki ima sheryetze mime echa hu yirashecha. Colui che uscirà dalle tue viscere, che verrà dalle tue viscere, sarà lui ad ereditarti. Prima fa questa affermazione e poi prosegue dicendo Vayotze oto hachutza. Hakadosh Baruch Hu lo condusse fuori all'esterno. Vayomer habet na hashamaima. E gli disse, guarda per favore al cielo. Usfor ha-kohavim, e conta le stelle, im tuchal lisporotam, se le riesci a contare. Vayomer lo, e gli disse, sempre a Kadosh Baruch Hu, ko yiye zarecha, così numerosa sarà la tua discendenza. Ora, HaKadosh Baruch Hu quindi gli promette una numerosa discendenza, cosa che non è la prima volta che gli promette, perché già in precedenza, nel capitolo 13, se vi ricordate, HaKadosh Baruch Hu ha detto ad Avram che la tua discendenza sarà Ka'afar Ha'aretz, come la polvere della terra. Ora usiamo un'altra analogia, le stelle del cielo, per sottolineare il numero incredibile. Infatti anche la Torah dice, intuchal lisporotam, se tu riesci a contarli. Bene, il numero delle stelle non si sa quanto sia, quante stelle ci siano. Però, perché se già ha parlato dell'analogia della polvere della terra, perché deve usare qui un'altra analogia? Perché non è solamente una differenza, dicono i commentatori, quantitativa ma qualitativa. E cioè, anche oggi usiamo la parola stella, una star, per indicare qualcosa di importante, soprattutto di particolare, in qualsiasi campo che sia, no? Allora, a differenza della polvere della terra, dei granelli di sabbia, le stelle emanano una luce. Le stelle sono delle cose alle quali noi guardiamo in alto per vederle, mentre invece la polvere della terra dobbiamo guardare in basso per vederla. E allora la Torah sta aggiungendo un'altra analogia per dire non solo saranno numerosi, ma saranno luminosi. Per essere luminosi bisogna essere in qualche maniera illuminati. Ok? Allora, c'è anche qui un'allusione ad una eventuale discesa e salita di morale e di importanza nel popolo, e cioè i maestri dicono questa nazione, la nostra nazione ebraica, è paragonata da un lato alla polvere della terra e dall'altro lato alle stelle, per insegnarci che cosa? Che quando scendono, scendono fino alla polvere della terra, scendono molto in basso, e quando salgono, salgono fino a molto in alto, fino alle stelle del cielo. È una frase sulla quale conviene magari ognuno soffermarsi e riflettere un po', perché è una frase molto forte e molto importante. Avram riceve queste indicazioni da Kadosh Baruch Hu e la Torah dice Vehemin Bashem. Avram ebbe fede e crebbe, ebbe fiducia in ciò che disse Hashem, nella promessa. Vayachsheveha lo tzedakah. E HaKadosh Baruch Hu gli considerò questa sua fede come una cosa di giustizia, un comportamento giusto, di rettitudine. Cioè anche questo stesso viene considerato un merito. Così spiega Rashi, che il soggetto del versetto cambia nella seconda parte. Il versetto è diviso in due. La prima parte del versetto è Ve'emin ba'Hashem, e Avram ebbe fiducia in Hashem. Qui possiamo dire che c'è un punto o una virgola. E la seconda parte del versetto Vayachsheveha lo tzedakah, e cioè gliela considera una cosa, una giustizia, una cosa importante, questo potrebbe essere che cambia il soggetto è HaKadosh Baruch Hu, considera ad Avram. Ma non tutti sono d'accordo con questa interpretazione. Questa è l'interpretazione che segue Rashi nel suo commento. E il Ramban, che abbiamo già citato in precedenza, Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, invece spiega proprio esattamente al contrario. Secondo lui l'interpretazione qui è che il soggetto rimane lo stesso e che è Avram che considera ad HaKadosh Baruch Hu questa una giustizia. Cosa vuol dire? Approfondiamo un attimino. Prima di tutto, torniamo un attimo indietro. Il Signore dice ad Avram non temere. Di cosa ha paura? Abbiamo dato qualche spiegazione, ma vedremo che il Ramban ne offre un'altra. La seconda cosa Avram chiede: cosa mi darai? Cosa mi puoi dare? Mi darai, va bene, ma cosa ne rimarrà di tutto ciò? E la domanda che si pone Ramban: scusa, ma Avram è l'uomo di fede per eccellenza. Ha forse qualche dubbio riguardo queste promesse che HaKadosh Baruch Hu gli ha fatto? Quando HaKadosh Baruch Hu risponde: guarda le stelle, cosa aggiunge che non c'era già nella promessa originale del capitolo 13 che abbiamo letto? Sì, abbiamo dato la spiegazione, la differenza tra la polvere della terra e le stelle del cielo, ok? Però nella promessa stessa cosa cambia? E poi si descrive Vehe Emin, e Avram ebbe fiducia. Beh, forse abbiamo capito già che Avram è uno che segue HaKadosh Baruch Hu con una fede cieca, con una fiducia totale. Cosa si aggiunge proprio qui? Per quale motivo la Torah ha deciso precisamente qua di indicare questa fede di Avram? E Ramban dice: HaKadosh Baruch Hu ha promesso, ma fino a questo punto Avram credeva, certo che aveva fiducia nella promessa di HaKadosh Baruch Hu, nelle parole di HaKadosh Baruch Hu, ma credeva che la cosa dipendesse da lui, da egli stesso, da Avram, e cioè secondo i meriti avrebbe potuto sì o no meritare quella che la promessa venga esaudita. Visto che l'uomo chiaramente ha il libero arbitrio, la libera scelta di comportarsi in una maniera idonea o non idonea alla volontà di HaKadosh Baruch Hu, quindi non conforme o conforme, e quindi avrebbe potuto comportarsi eventualmente in maniera diversa e non più meritare quanto HaKadosh Baruch Hu gli ha assicurato. Allora, vedendo che non gli è nato un figlio, non dice HaKadosh Baruch Hu è venuto a meno nella promessa, dice: io sono venuto a meno nel mio comportamento, ho sbagliato io in qualche maniera, forse non me lo merito più. Ecco che HaKadosh Baruch Hu dice: al tira, non temere, il tuo merito è molto grande, molto vasto, cioè non hai un problema di mancanza di meriti, il tuo comportamento è conforme alla mia volontà in generale. Allora di nuovo c'è la domanda, allora c'è proprio la domanda: perché non mi hai dato figli? Hen li lo natata zara? Ok, mi dici che il mio comportamento è idoneo, ma ora quesito si propone, allora dov'è la promessa? E HaKadosh Baruch Hu risponde: guarda le stelle e così sarà la tua discendenza. E cioè, la mia promessa sarà come le stelle. Cosa vuol dire come le stelle? Nello stesso modo che tu non puoi influire da qui l'andamento o la condizione delle stelle, non potrai neanche influire sulla mia promessa, che sarà così come ti ho detto. Allora Emin Ba'Hashem, allora a questo punto la Torah dice: Avram seppe e crebbe e ebbe fiducia con certezza che la promessa di Hashem non solo sarà valida di per sé, ma sarà valida anche a prescindere del suo comportamento, a prescindere quindi di qualsiasi altra cosa, che sarà così. Quindi vayachsheveh allo tzedakah, Avram la considerò una tzedakah da parte di Hashem, cioè un atto di bontà, di tzedakah, di chesed, di beneficenza quasi, da parte di Hashem, che gli promette una cosa senza, tra virgolette, aspettarsi un ritorno, senza porre delle condizioni: qualora tu ti comportassi in questa o quell'altra maniera, allora questo sarà il ritorno, questo sarà la ricompensa. No? È come una tzedakah, è come un bene gratuito. E allora ecco che abbiamo ricevuto delle risposte a tutte le domande che abbiamo fatto adesso introducendo il Ramban. Bene, nella seconda parte di questa visione si andrà ad approfondire una profezia che, come ho detto all'inizio della lezione, va a segnare tutto il futuro del popolo ebraico, e nella prossima lezione lo vedremo nel testo, ed è il Berit Ben Abetarim, il patto tra le parti che avviene tra HaKadosh Baruch Hu e Avraham Avinu.